all'interno di questo territorio reali e non fantomatici o sventolati dietro a sigle, marchi, fiere o robe del genere. Noi ci piace mangiare bene, bere bene, stare bene, valorizzare i prodotti di qualità, ma ci piace anche creare progettualità che trasformino veramente questo territorio e lo salvaguardino da un altro punto di vista invece. Lascio la parola subito a Renata, che insomma è il primo intervento di questo dibattito.